scelta condivisa. Capito. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni per trovare una soluzione al Termini Venezia, siamo disposti ad ascoltare tutto. Quindi non abbiamo chiuso la porta a nessuno, io non ho visto niente fino adesso. Dividiamo la scelta, capiamo le ragioni per cui è stata fatta. L'ho detto chiaramente, no? Si venderanno 350.000 vetture in meno in Italia. No? Ci dovrà stare per forza, se produciamo meno vetture in realtà è questo. Ma la gestiamo, come abbiamo scritto le altre cose. No? Io accetto quello che ha detto il ministro per quello che è, no? Non ci sono incentivi, basta. Andiamo, guardiamo al futuro, no? Lavoriamo sul mercato. Andiamo fuori dall'Italia, andiamo a lavorare dappertutto, no? Per rispondere alla domanda sua sulla Russia, non ho niente da dire fino a quando non si annuncia qualcosa di definitivo. Io credo che ci sarà, e questo è un mercato che deve trovare a livelli normali, deve trovare la sua base, quindi non, tutti questi indirizzi vanno nella direzione giusta. Lasciamo lavorare i mercati. Ne siamo lieti perché non c'è dubbio che, come abbiamo confrontato con i colleghi europei, bisogna rientrare nella normalità del mercato. E rinviare questa scelta fermerebbe i consumi se non fosse chiarita la posizione, perché tutti rimarrebbero in attesa, e poi perché potremmo avere difficoltà molto più grosse nel 2011 o nel secondo semestre del 2010. Ecco perché ci pare che sia più saggio rientrare celermente nella normalità del mercato, non dando incentivi al consumo dell'auto, focalizzando alcune risorse sulle innovazioni e sulla ricerca nel settore dell'auto e incentivando il consumo per alcuni prodotti che hanno particolarmente sofferto e che hanno bisogno di una spinta.